Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Attentato a Parigi, non ci sono collegamenti col Belgio, dice la procura. Il terrorista è francese, radicalizzato, noto alle forze dell'ordine, era stato arrestato in febbraio, l'ISIS rivendica. E l'attacco pesa sul primo turno delle presidenziali, i francesi alle urne con 4 candidati in pochi punti percentuali, Le Pen e Macron ancora in testa. Il console e gli avvocati incontrano Gabriele Del Grande in Turchia, il ministro Alfano sta bene, ma è in sciopero della fame. Gasdotto, TAP, riparte l'espianto degli ulivi e riparte la protesta. Barricate agli accessi al cantiere, ma mancano solamente 30 alberi da spostare. Le bombe contro il pullman del Borussia Dortmund. L'uomo che le ha piazzate mirava a speculare in borsa sui titoli della squadra tedesca. E per il calcio la Juve incontrerà in semifinale il Monaco. L'altra semifinale di Champions sarà un derby tra Atletico e Real Madrid. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre, il numero per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, così come potete scriverci se volete sulla nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo in diretta video, www.facebook.com/effettogiorno, siamo in diretta video anche sulla pagina Facebook di Radio 24. In apertura, dunque, gli aggiornamenti sull'attentato di Parigi, il punto politico di giornata. Dalla Francia alla vigilia del primo turno dei presidenziali. Iniziamo dalla cronaca. Il presunto attentatore degli Champs-Élysées era stato arrestato lo scorso febbraio per aver minacciato la polizia ed era stato rilasciato per mancanza di prove. Nel 2003 era stato addirittura condannato a 20 anni di reclusione per 3 tentati omicidi, pena ridotta a 15 anni nel 2005. Era uscito dalla prigione a fine 2015. Anche se la polizia non ne conferma l'identità, l'assalitore ucciso sarebbe un francese, Karim Chorfi, di 39 anni, pregiudicato e schedato come islamico a rischio di radicalizzazione. C'erano diverse armi nella sua auto ritrovata dopo la sparatoria sugli Champs-Élysées e rivendicata dall'ISIS. Non c'è invece al momento nessun legame tra l'attacco di Parigi e il Belgio. L'uomo che si è presentato spontaneamente al commissariato di Anversa ha un alibi e nega ogni coinvolgimento nei fatti di Parigi. Intanto non sono in pericolo di vita i 2 poliziotti feriti nell'attacco in cui un altro agente è rimasto ucciso. Ferita lievemente nell'attentato anche una donna tedesca che da anni vive in Francia. Dopo l'attacco agli Champs-Élysées è stata subito convocata una riunione d'emergenza del Consiglio di difesa all'Eliseo. Oltre al presidente Hollande era presente il primo ministro Cazeneuve, che dopo il vertice ha lanciato un appello all'unità del paese. Ne pas céder à la peur, à l'intimidation, à la manipulation. Non si deve cedere alla paura, all'intimidazione e alla manipolazione che fanno il gioco dei nemici della Repubblica, ha dichiarato il primo ministro francese. E nei prossimi giorni più di 50.000 poliziotti e gendarmi saranno mobilitati per garantire la serenità di svolgimento delle elezioni presidenziali di domenica. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E avete sentito, come era naturale anche già nel servizio di cronaca, qualche accenno alla situazione politica e a quello che ci si aspetta appunto per queste presidenziali. Dunque, proprio il punto politico è per fare un'analisi di quello che ci si può attendere, di quello che sta succedendo in queste ore. Abbiamo in studio con noi Gigi Donelli. Gigi, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone, un saluto ancora agli ascoltatori. Sì, ovviamente questo è un attentato, un attacco che arriva appunto con un voto imminente, un voto che era già carico di tensione su questi temi. D'altra parte, diciamo che da Charlie Hebdo, 7 gennaio 2015, i primi 12 morti di una sequenza di sangue che poi ha visto in particolare nel Bataclan, quindi era novembre del 2015, e poi l'attentato di Nizza il 14 luglio, quindi festa nazionale 2016 con 87 morti, insomma il tema della sicurezza è impiantato in Europa e in Francia in maniera particolare. E il tenore di queste ultime ore di campagna elettorale dunque si concentra totalmente su questo aspetto, di fatto tralasciando tutti i temi sociali, ma naturalmente tant'è. Allora, dichiarazioni, è il momento di mostrare i muscoli, si potrebbe dire. La Le Pen lo ha fatto ancora questa mattina in una conferenza stampa del suo quartier generale, a 2 passi dall'Eliseo, ha detto: siamo in guerra contro un mostruoso totalitarismo. Così la candidata appunto del fronte nazionale. Lei, come gli altri candidati, ieri sera avevano detto: abbiamo sospeso di fatto la campagna elettorale. Hanno sospeso sì gli eventi pubblici, ma non le comunicazioni, tant'è che hanno parlato tutti. Sentiamo in sottofondo Emmanuel Macron, la grande sorpresa di questo primo turno, quantomeno poi si vedrà. L'uomo senza partito, il partito se l'è creato en marche per arrivare a questa sfida. Notre campagne présidentielle. Quindi da una parte dice interrompiamo la campagna presidenziale, dall'altro fa queste comunicazioni. Ormai i mezzi di comunicazione sono tali che il problema non sussiste. Anche lui dice la sicurezza. Parla della sicurezza, del fatto che la Francia sia capace di gestire il terrore mantenendo le sue prerogative democratiche e di libertà. E in questo senso, e possiamo sentire un altro candidato che ha parlato questa mattina, François Fillon, sentiamo. Che nous sommes confrontés a un totalitarisme islamique, c'est-à-dire bene, a di nuovo il tema del totalitarismo, il totalitarismo islamico. François Fillon, che candidato appunto rappresentante della destra, diciamo tradizionale, in difficoltà alla partenza di questa gara per lo scandalo di fatto legato al ruolo e al coinvolgimento della moglie nelle attività professionali, e via via si afferma però per l'altra parte, che è quella di un uomo appunto navigato. Fillon è stato tra l'altro primo ministro dal maggio 2007 al maggio 2012, e anche lui in queste ore parla con dei toni che sembrano presi più da più a destra, e usa espressioni come pugno di ferro, schiacceremo il terrorismo. È chiaro che in queste ore tutti chiedono questo, tutti temono questo aspetto. Domenica, lo ricordiamo, una lunga giornata di voto che si conclude alle 20 soltanto con la chiusura dei seggi nell'Île-de-France, e vi anticipo, lo seguiremo anche in uno speciale tra le 19 e le 21 di domenica sera. E grazie al nostro Gigi Donelli anche per questo aggiornamento, per questo punto e per questa analisi sulla situazione politica. Vedremo come andrà questo primo turno dei presidenziali francesi. Veniamo ad altre bombe, quelle contro il pullman del Borussia Dortmund, che non erano un attentato di matrice islamica, come si era pensato inizialmente. Non è un terrorista islamico, né un hooligan, né un estremista di sinistra l'autore dell'attentato al pullman del Borussia dell'11 aprile scorso. È un 28enne con doppia cittadinanza tedesca e russa che voleva mettersi in tasca quasi 4 milioni di euro, scommettendo sul fatto che ammazzando i giocatori e l'allenatore della squadra avrebbe fatto crollare il titolo in borsa. L'uomo è stato arrestato questa mattina a Tubinga, nonostante avesse cercato in ogni modo di depistare le indagini. Gli errori commessi hanno consentito agli inquirenti di mettersi sulle sue tracce e su quelle di altri due complici, che potrebbero aver affittato l'auto per trasportare il materiale esplosivo. Insieme all'arresto, la polizia ha fatto sapere infatti di aver svolto anche perquisizioni in 4 appartamenti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo per quanto riguarda il Borussia. Ci spostiamo all'Italia, perché riparte la protesta contro TAP insieme al fatto che sono ricominciati i lavori dopo la sentenza del TAR. Domenico Palmiotti, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, vai. Stamattina il cantiere TAP ha trovato una sorpresa negativa, perché durante la notte sono state lanciate pietre, sono state costruite nuove barricate per impedire che accedessero i mezzi di trasporto degli ultimi ulivi rimasti, sono state divelte alcune recinzioni, e la reazione forte, violenta dei no TAP alla sentenza di ieri del TAR del Lazio. Il TAR del Lazio, come già altri gradi della magistratura, anche amministrativa e ordinaria, hanno detto che l'espianto è regolare, che l'espianto è autorizzato, che l'espianto può quindi procedere, ma questo evidentemente non va bene agli oppositori, che sono tornati a far sentire la loro voce. C'erano già delle avvisaglie, perché alcune ore prima della sentenza i movimenti no TAP si erano dati appuntamento sui social, invitando tutti a prepararsi ad una nuova mobilitazione, e ieri appunto questa notte ci sono stati appunto dei segnali. I lavori, in ogni caso, gli ultimi espianti non sono ripresi oggi, perché TAP ha detto di aver bisogno ancora di qualche giorno per programmare la ripresa dei lavori. Si vedrà quando avverrà, presumibilmente entro fine mese, perché il 30 aprile è anche il termine ultimo per cui gli ulivi vanno trasferiti. Dopodiché, in base alle pratiche agronomiche e ai regolamenti colturali, bisogna star fermi sino a novembre. E grazie a Domenico Palmiotti anche per questo aggiornamento. Torneremo a parlarne più avanti, lo faremo parlando con Marco Potti, il sindaco di Melendugno. Il console e gli avvocati di Gabriele Del Grande hanno incontrato stamattina il giornalista e documentarista italiano. Il servizio. Questa mattina Gabriele Delgrande ha incontrato la delegazione consolare italiana e il suo legale nel centro di detenzione amministrativa di Mula, nella Turchia sudoccidentale. Alla stessa delegazione due giorni fa era stato impedito di incontrare il blogger dalle autorità turche. È la prima buona notizia da 12 giorni a questa parte, da quando Delgrande è stato fermato nella provincia meridionale di Hatay, vicino al confine con la Siria, perché si trovava in una zona nella quale non era permesso l'accesso. Ci risulta che Gabriele stia bene, ha detto il ministro degli esteri Alfano, sta facendo uno sciopero della fame nutrendosi solo di liquidi, ha comunque l'assistenza di un medico che ho richiesto e ottenuto dalle autorità turche. Il documentarista si trova in stato di fermo amministrativo e al momento contro di lui non è stata formalizzata alcuna accusa. Nei suoi confronti sarebbe in atto una procedura di espulsione, ma i tempi non sono certi. Il presidente del Consiglio Gentiloni, ieri da Washington, ha detto: siamo entrambi nella NATO, l'Italia contribuisce alla difesa della Turchia, pensiamo che tra noi ci debba essere collaborazione e confidiamo che tra le conseguenze ci sia la liberazione di Delgrande. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Siamo alle cronache dalla manovra. È atteso in giornata al Quirinale il testo definitivo della manovrina, che poi dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Una correzione dei conti da 3,4 miliardi per il 2017 chiesta dall'Europa. Nell'ultima bozza del decreto approvato 10 giorni fa dal governo vengono confermate la stangata sui giochi e la cedolare obbligatoria al 21% sugli affitti brevi, ma anche l'aumento delle accise sui tabacchi, lo split payment e i tagli di spesa per i ministeri. Confermate anche le maxi multe fino a 200 euro per chi viaggia sui mezzi pubblici senza biglietto. Con la manovra arriva anche il via libera alla fusione tra Ferrovie e ANAS, mentre per il terremoto è prevista l'istituzione delle zone franche nei 140 comuni del cratere e l'esenzione per 2 anni dal pagamento di imposte e contributi. Nel decreto infine entrano anche gli aiuti per Alitalia e la norma sugli stadi, che riguarderà anche il nuovo impianto della Roma. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono le ore finali per la rottamazione delle cartelle, siamo a scadenza, le file nelle sedi dell'Agenzia delle Entrate sono parecchie. Andiamo a Roma oggi. Chiara Piselli, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, in diretta dalla filiale di Equitalia di via Cristoforo Colombo, anche oggi presa d'assalto come negli ultimi giorni, del resto già a partire dalle prime ore della mattina. Centinaia anche oggi le persone in coda, munite di numero nell'attesa di poter accedere agli sportelli in questa ultimissima giornata utile, per presentare le cartelle da rottamare senza andare incontro a sanzioni e interessi di mora. Si aspettano addirittura delle mezz'ore anche solo per prendere il numero e mettersi in coda. Abbiamo sentito di qualcuno che è qui fin dalle 6 di mattina e teme comunque di non riuscire a fare in tempo, poiché la chiusura degli sportelli è fissata per le 15:15. Dunque sono davvero le ultimissime ore utili, mentre chi ha scelto di usare i canali telematici avrà tempo, come sapete, fino alla mezzanotte, anche se c'è qualcuno che si lamenta dei sistemi che procederebbero un po' a singhiozzo, affaticati nel tenere il ritmo dell'invio delle domande. In realtà Equitalia fa sapere che i server della società e dunque i canali di invio sono stati potenziati al limite del possibile della tecnologia. Qui in sede comunque c'è anche del personale di rinforzo, ma questo da alcune settimane, che fornisce delle prime indicazioni sulle cartelle delle singole casistiche, dunque si occupa poi di smistare le file per tipologia. Corsia preferenziale hanno ovviamente gli anziani, gli invalidi e le donne incinte. Abbiamo avuto modo di vedere cartelle dagli importi più disparati, in moltissimi casi di multe arretrate, bolli non pagati e dunque tanti mea culpa. Abbiamo raccolto le voci di alcune persone in fila, vi le facciamo ascoltare, poi la linea torna a te, Simone. Dalle 6 di mattina. Dalle 6. 20 minuti per prendere il numeretto, forse 30, e non so come andrà a finire. Sì, sono circa 2 ore e mezza. L'attesa è lunga. Ma appena arrivato, guardi il numero, è un brutto momento. Vabbè, è dura aspettare, insomma, con tutta questa gente. Però abbiamo anche chi ci porta l'acqua, il caffè, lo vede? Non bisogna alzarsi se uno deve vedere quando arriva il proprio numero. Varie cose, multe, bolli, cose simili. Se all'inizio tu devi pagare 100 euro, ti trovi che alla fine te ne devi pagare 400-500 euro, che per una famiglia è impossibile andarle a pagare. E ecco qui che si accumulano. Diciamo, io sono qui per delle multe che ho preso e ho fatto ricorso e niente, sono state rigettate, e quindi sono venuta qua per cercare di fare la rateizzazione. perché non ti vengono comunicate all'inizio e quando ti arrivano con le tasse, ti arrivano con gli aggravamenti, ti arrivano con le maggiorazioni. Vorrei fare prima perché ho altro da fare nella vita. Così dunque, cronache della rottamazione delle cartelle, cambiamo decisamente argomento, andiamo a chiudere questa prima parte con il calcio e soprattutto con i sorteggi di Champions. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Allora, dunque, ti abbiamo al telefono, allora lo dico subito, ti abbiamo al telefono perché sì, oggi tutti convocati va in onda da Radio City qua a Milano e quindi è da là che andrete in onda, però parlami, quindi non è che non sei qua. Tutti convocati, no, sarà regolarmente in onda. Tutti convocati sarà regolarmente in onda, anzi da una location speciale. Invito gli ascoltatori milanesi, Piazza Gaia Volenti, a anche a venirci a trovare, a fare qualcosa di diverso rispetto al solito. Invece qualcosa di simile rispetto al solito speriamo che faccia la Juventus in Champions League. Allora, il sorteggio dice Monaco, che è la squadra tendenzialmente più debole del lotto, perché c'erano le due spagnole che si incroceranno nel derby di Madrid, però è anche una squadra molto giovane, molto talentuosa, molto fresca, con un giocatore come Mbappé che molti candidano tra le prossime superstar a livello mondiale. È una squadra che nulla ha da perdere, dunque potrebbe essere qualcosa di scivoloso, anche per la pericolosa Juventus, ma... sì, anche pericolosa, sì, in qualche modo. Certamente stiamo giocando andiamo a giocare le semifinali di Champions, certo, League, dunque è chiaro che materassi non esistono. Resta il fatto che la Juventus si presenta dopo aver eliminato il Barcellona con i suoi soli due gol subiti in tutta la Champions League, che non è poco. Chiaro che è la favorita, giocherà la prima in trasferta, il ritorno a Torino, Simone. Sì. Sì, e l'altro è un derby, no? L'altro è un derby, classico derby di Madrid che abbiamo visto in tutte le salse in Champions League negi ultimi anni, dalle finali alle semifinali. Due filosofie di calcio profondamente diverse, quella del Cholo Simeone, che ormai è diventata quasi una filosofia vera, il ciolismo, no, con questa squadra umile, operaia, che gioca sempre lacrime e sangue, e là, dall'altra parte, lo stellare Real Madrid di Zidane, che è un allenatore sempre in bilico, ma che si sta prendendo enormi rivincite. Dopo aver vinto la Champions League l'anno scorso, quest'anno ha in mano il campionato e ora si gioca la semifinale di Champions. Allora grazie Carlo, ti troviamo ovviamente alle 14, come si diceva, in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo per il nostro giro per l'Italia, il nostro giro per l'Italia che ci porterà innanzitutto a parlare anche oggi di Cavalcavia, perché insomma ce n'è un altro del quale vogliamo parlare, un altro che si trova in provincia di Sassari. Parleremo anche di alberghi, di come stanno andando le cose dal punto di vista delle prenotazioni, che segnali stanno arrivando in queste ore, e poi ci occuperemo del 25 aprile, che non si capisce come mai ogni anno quella che è la festa della liberazione dal nazifascismo debba diventare una fonte di polemica. Tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dell'attentato a Parigi e delle possibili conseguenze politiche di questo attentato. Abbiamo parlato di Gabriele Del Grande, il console e il suo avvocato lo hanno incontrato nel carcere in Turchia ed è in sciopero della fame. Del gasdotto TAP, sul quale tra l'altro torneremo tra poco perché è ripartito l'espianto degli ulivi dopo la sentenza del TAR, delle bombe contro il pullman del Borussia Dortmund, della manovra, della rottamazione delle cartelle e infine ci siamo occupati anche di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, ma non prima di una piccola nota su quello che ci avete scritto, quello che mi avete scritto dopo che ho detto che non si capisce come mai, insomma, ad ogni 25 aprile debbano esserci delle polemiche per una festa che è la festa appunto della liberazione dal nazifascismo. Allora, rifiutiamo l'idea dell'ascoltatore che dice che il 25 aprile andrebbe abolito finito perché invece è da festeggiare. All'ascoltatore invece che dice: ma perché non festeggiare anche il resto, come per esempio la festa dell'Unità d'Italia? Sta parlando con uno che ha realizzato insieme a Paolo Piacenza, è stato l'autore e realizzatore del Gazzettino del Risorgimento, che è la trasmissione che abbiamo dedicato esattamente a questo, quindi non lo devi dire a me. Sì, il 17 marzo sarebbe da festeggiare come festa dell'Unità d'Italia, ma anche su questo non, ci sono un po' di persone che non sarebbero d'accordo. Ci spostiamo in Sardegna adesso nel nostro giro per l'Italia e ci andiamo perché, per carità, qua nessuno vi vuole mettere paura o ansia, però certamente dopo che negli ultimi mesi è crollato il cavalcavia a Fossano, è stato l'ultimo, quello sulla 14, quello sulla statale che porta da Milano a Lecco, la statale di Como e dello Spluga, così si chiama, del lago di Como e dello Spluga, così si chiama, beh, insomma, qualche timore, no? Alcuni di noi iniziano ad avercelo. Naturalmente sono caduti questi tre cavalcavia tutti per motivi diversi: su uno c'erano dei lavori, sull'altro l'altro c'è stata un po' di confusione tra l'ANAS e la provincia, che dovevano chiudere questo cavalcavia al passaggio dei mezzi pesanti e non l'hanno chiuso. In quest'altro ancora, questo di Fossano, forse si tratta di un difetto costruttivo, e però appunto ci sono in vari luoghi d'Italia persone che hanno espresso preoccupazione, a partire dal sindaco di Ponte di Legno, con il quale abbiamo parlato ieri, il sindaco che ci dice che hanno messo un tronco, dei tecnici mandati all'ANAS hanno messo un tronco per sorreggere il cavalcavia che porta da Ponte di Legno, provincia di Brescia, al passo del Tonale. E poi c'è la statale 131 in Sardegna, dove c'è questo cavalcavia, e il sindaco di Silico, che si chiama Mario Sassu, dice: attenzione, qua io posso chiudere la statale, ed è una statale dove passano 10.000 macchine al giorno in quel passaggio, 10.000 veicoli ogni giorno. Lo abbiamo intervistato, sentiamolo. Effettivamente il ponte, il cavalcavia che sovrasta la 131 nel nostro territorio, è stato danneggiato nel 2009 da un tir che operava un trasporto eccezionale, ed è stata una corsia della strada provinciale che passa proprio sul cavalcavia, è stata chiusa al traffico ed è tuttora chiusa al traffico già dal settembre 2015. Mi scusi, cosa è successo? Perché è passato sopra il tir? È passato sotto ed era troppo alto. Un tir, esatto, con una torre eolica, e si è incastrato fisicamente, per cui la trave di bordo del ponte è stata urtata, e come si evince peraltro dalle perizie dei vigili del fuoco, ciò ha indotto ANAS alle verifiche che poi sono state tutto sommato abbastanza sommarie, per cui noi già dal 2015 ci siamo preoccupati di chiedere a ANAS e alla provincia di Sassari di operare una perizia tecnica perché si verificasse le condizioni effettive del cavalcavia. Sì. Per tutta risposta, purtroppo ANAS ha fatto ricorso alla mia ordinanza, sì, dicendo che non c'erano le condizioni di urgenza tali da giustificare un'ordinanza sindacale, cosa che peraltro il TAR ha rigettato perché ha negato la sospensione. Ma non ho capito, ma lei la chiude questa strada oppure no alla fine? Guardi, certo, noi abbiamo recentemente abbiamo avuto dei colloqui anche con il commissario straordinario della provincia, che si è reso disponibile ad intervenire quanto prima, però anche alla luce dei recenti fatti noi ci riserviamo di chiudere, perché è una strada ad alta concentrazione di traffico, sotto quel cavalcavia passano circa 10.000 veicoli al giorno. 10.000 veicoli al giorno sotto quel cavalcavia, certo. Ed è appunto un cavalcavia pericoloso. E lei si è dato dei tempi, cioè entro quando decide se chiuderla oppure Guardi, no? Sono un po' preoccupato, alla luce, devo dire la verità, alla luce anche del recente fatto dell'altro giorno. Io ora penso già la settimana prossima di intervenire con un'ordinanza, perché la situazione per me è molto preoccupante, devo dire la verità. Perché ha paura anche, immagino, che la responsabilità poi ricada su di lei, visto che il cavalcavia insiste sul vostro... Sì, benché si si tratti di una strada statale, certo, insomma, quantomeno dal punto di vista morale abbiamo l'obbligo di tutelare le migliaia di persone che ci passano quotidianamente sotto, per cui assolutamente già dalla settimana prossima prenderemo i necessari provvedimenti, assolutamente. Così dunque il sindaco di Sirico, mentre qualche ascoltatore ci scrive al 349-238-6666, Raffaele ci dice: a Sant'Egidio Monte Albino, provincia di Salerno, è stato chiuso un cavalcavia di recentissima costruzione, perché poi qua qualcuno inizierà anche a chiuderli solamente per precauzione, evidentemente per evitare responsabilità. Speriamo che non ecceda la cosa. Siamo in linea con Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Buongiorno Bocca, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti voi. Allora, ci dice che vi aspettate da questo fine settimana? Siamo positivi sul fine settimana, ci aspettiamo oltre 7 milioni e mezzo di italiani che si muoveranno per il ponte il 25 aprile, con un incremento di circa 2% rispetto allo stesso ponte dell'anno precedente. Il mare ovviamente sarà la destinazione preferita. Il dato molto positivo per noi è che continua a aumentare la percentuale di italiani che faranno le vacanze in Italia. E questo per noi è un motivo di grande vanto, perché sì, significa che la PIL del prodotto turistico italiano continua a rimanere intatto, anzi continua a crescere. Sì. I dati positivi. Questo probabilmente a volte, no, su questo contano anche un po' di tensioni internazionali che ci sono in giro, ci sono magari posti nei quali uno non va più, evidentemente, però questo succede ogni anno, quindi evidentemente registriamo comunque con piacere quello che sta avvenendo. Sento una cosa, Bocca, lei forse lo saprà, di questo tema ci siamo occupati molto, che aria tira dalle parti delle zone che sono state colpite dal terremoto, che stanno cercando di ripartire? Diciamo che c'è una lenta ripresa. Il problema, oltre che le zone presenti del cratere, sono stati in questi ultimi mesi i danni indiretti che hanno avuto le strutture turistiche che risiedono in quelle regioni, anche se non sono state direttamente colpite dal terremoto. Soprattutto sui mercati esteri, che quando si diceva terremoto in Umbria o nelle Marche, il turista straniero non faceva differenza tra un comune. Certo. Certo. Diciamo che è difficile dimenticare una tragedia come quella che è stata il terremoto, però bisogna cercare di guardare avanti, di non parlare solamente del terremoto, ma di parlare della bellezza di queste aree che si stanno lentamente riprendendo. Quindi io auguro con tutto il cuore e un invito anche ai nostri connazionali, se possono, di dare una mano trascorrendo qualche giorno di vacanza in quelle zone. Andateci dunque, grazie a Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, per essere stato con noi, proprio perché ci sono delle zone che sono state fortemente colpite, ma sono in realtà molto ristrette, e ci sono altre zone invece, appunto, l'area più vasta, per così dire, di quelle aree colpite dal terremoto, dove si sta benissimo, serenamente e in perfetta sicurezza. Ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, ce l'abbiamo Marco Poti? Ce l'abbiamo? Eccoci qua. Marco Poti, sindaco di Melendugno, eccoci, buongiorno. Buongiorno. Bentornato ai nostri microfoni. Dunque, parliamo di TAP naturalmente, perché stamattina è ripreso l'espianto degli ulivi, o meglio, ieri è ripreso l'espianto degli ulivi e stamattina è ripartita la protesta. C'era anche lei, immagino, a protestare là, no? No, le nostre... No, ma... Non è ripartita nessuna attività di espianto degli ulivi, e la protesta è tutt'altro che forte. Mi risultano che in seguito alla pubblicazione di una... Poti, però abbiamo, guardi, un audio, pochissimo campo probabilmente nel posto nel quale si trova. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e proviamo a recuperare Poti, e poi parliamo di questo 25 aprile. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, in diretta qua su Radio 24, così come sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale andiamo in diretta anche video. I nostri titoli: l'attentato a Parigi, non ci sono collegamenti col Belgio, dice la procura, il terrorista è francese, radicalizzato, noto alle forze dell'ordine, era stato addirittura arrestato in febbraio, l'ISIS ha rivendicato. e l'attacco pesa sul primo turno delle presidenziali. Domenica i francesi alle urne con 4 candidati in pochi punti percentuali, quindi grandissima incertezza. Le Pen e Macron sono ancora in testa. Il console e l'avvocato hanno incontrato Gabriele Del Grande in Turchia. Il ministro Alfano dice che il giornalista e documentarista italiano detenuto nel paese sta bene, ma è in sciopero della fame. Il caso Totà è ripartito, ve l'abbiamo raccontato, l'espianto degli ulivi, o meglio, ci si è provato, ma come ci ha raccontato Marco Potis, sindaco di Melendugno, in realtà non è mai ripartito, ed è ripartita anche la protesta, barricate agli accessi al cantiere, ma mancano solamente 30 alberi da spostare. Le bombe contro il pullman del Borussia Dortmund, infine, l'uomo che le ha piazzate mirava a speculare in borsa sui titoli della squadra tedesca. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, mentre al 349-238-6666 qualche ascoltatore tira via la battutaccia, che però devo dire non è niente male. Siamo ancora in attesa di ricollegarci col sindaco di Melendugno, Marco Potì. Sindaco, eccoci qua, ci sente? Buongiorno, Sì, la sentiamo, perché c'è un ascoltatore che ha fatto la battutaccia, ha detto il sindaco non ha dato l'autorizzazione per i ripetitori telefonici, che non è male, visto e parliamo di TAP. Purtroppo lo devo deludere, perché sono a Bari, non sono a Bari. Ah, non è a Bari, ah vabbè, quindi evidentemente tocca incolpare o De Caro o Emiliano, insomma uno dei due. Sento una cosa, dunque non è ripartito l'espianto, ci stava dicendo, perché di fatto sono state messe le barriere davanti al cantiere, no? No. Evidentemente non ce la possiamo fare. Riusciamo a parlare in diretta con Mumbai, ma con Bari no, non ci riusciamo a parlare. Dunque, veniamo alle vicende del 25 aprile, a tutte le polemiche che si stanno scatenando. Sono delle polemiche, lo diciamo prima, che almeno a mio personalissimo giudizio sono incomprensibili, nel senso che la festa della liberazione, la festa del 25 aprile, dovrebbe essere una festa per tutti, è la festa della liberazione dal nazismo e dal fascismo, ma ogni anno si scatena la polemica per i più svariati motivi, a volte perché si dice che è una festa eccessivamente divisiva, altri dicono che è una festa monopolizzata dalla sinistra, mentre altri partigiani sono stati, per così dire, lasciati fuori. Da qualche anno quello che si scatena è il problema della brigata ebraica e della partecipazione della brigata ebraica, che attivamente partecipò alla liberazione di questo paese, alle manifestazioni. Questo perché, per tutta una serie di motivi, che il nostro Adriano Palazzolo, che questa mattina è stato alla presentazione della manifestazione milanese, che è quella sulla quale si addensano molte polemiche insieme a quella romana, ci racconta un po'. Adriano, buongiorno, ciao. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Una manifestazione legata ai temi anche dei migranti, della tolleranza e dell'osservanza della Costituzione. E questo il programma per le celebrazioni a Milano del 72esimo anniversario della liberazione. A presentare il programma è stato Roberto Cenati, presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani, ma presidente anche del Comitato Permanente Antifascista. Nei giorni scorsi proprio Cenati è stato oggetto di insulti da parte di gruppi antisemiti per aver difeso la brigata ebraica e per la scelta da parte degli organizzatori della manifestazione di proteggere appunto i rappresentanti della brigata con un cordone addirittura di militari per evitare che ci siano le solite contestazioni da parte dei gruppi filopalestinesi. Ma sentiamo proprio Roberto Cenati sul ruolo storico che ha avuto la brigata ebraica nella liberazione. Noi riconosciamo, dovremmo essere tutti riconoscenti al ruolo svolto dalla Brigata Ebraica nella lotta di liberazione. La Brigata Ebraica ha dato un contributo fondamentale allo sfondamento della linea gotica, alla liberazione di tante località dell'Italia centrale dal nazifascismo, ha avuto tanti caduti e ci deve essere da parte di tutti un sentimento di riconoscenza. L'appuntamento martedì sarà alle 9 in Piazza Tricolore per la deposizione di corone alle lapide e monumenti che ricordano i caduti per la libertà. Poi in mattinata ci saranno davvero tanti altri appuntamenti, fino a un corteo che prenderà vita intorno alle 14 lungo Corso Venezia e che arriverà in Duomo, dove sul palco interverranno tra gli altri il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente nazionale dell'ANPI Carlos Muraglia e il presidente del Senato Pietro Grasso. Sì, questo per quanto riguarda appunto la manifestazione che si svolge a Milano, dove, come avete sentito, incredibilmente bisogna creare per della gente che protesta, bisogna creare una sorta di cordone, no, intorno alla Brigata Ebraica, che, come ci ha raccontato anche il presidente dell'ANPI provinciale di Milano, ha partecipato attivamente e con forza a quella che è stata la liberazione di questo paese. Lo stesso problema più o meno si sta ponendo a Roma in termini diversi, perché le contestazioni che arrivano alla Brigata Ebraica in questo caso non sono il problema è un po' diverso, nel senso che alla manifestazione del 25 aprile a Roma sono state invitate anche associazioni palestinesi e i problemi possono essere forti e notevoli, perché la Brigata Ebraica ha la stessa bandiera di Israele e questo genera dei rischi e dei rischi di contrasto, e su questo fronte c'è stata anche una divisione interna alla sinistra, per cui il Partito Democratico Romano ha deciso di unirsi alla manifestazione in realtà fatta dalla Brigata Ebraica e non alla manifestazione organizzata dall'ANPI, e su questo c'è stata sostanzialmente una rottura tra l'ANPI e il Partito Democratico. Questo è il quadro in vista del 25 aprile, che si celebrerà martedì. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.